C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne e sé. Cantava Help e Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles Stones. M'han detto va nel Vietnam e spara i Vietcong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles Stone. Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre.